adesso non sentite più a Celentano, sentite solo a me. Benvenuti a Ciao Ragazzi, questo programma, come sapete, può anche essere ascoltato in internet sul nostro sito www.2rr.org.au. Potete scaricarlo in formato MP3 e ascoltarlo sul vostro computer o sul vostro lettore MP3. Quello che volete fare, potete farlo. Può essere sentito in tutto il mondo questo programma. Che bello, che bello. Dunque, che cosa c'ho da raccontarvi? Dunque, siamo a maggio. Ciao ragazzi, il programma Ciao Ragazzi terminerà a giugno. Purtroppo è una decisione che ho dovuto fare, ma la vita continua. Mi dispiace per coloro, i nostri ascoltatori, ma purtroppo Roberto non può continuare a farlo. Oppure potete persuadermi a rimanere chiamandomi al 981629938, ma vedete poi no, purtroppo devo smettere il programma Ciao Ragazzi. Chissà se qualche giorno tornerà. Comunque, dicendo questo, ancora ci saranno diverse puntate, almeno 5 o 6 puntate sono rimaste di Ciao Ragazzi, quindi cercheremo di divertirci nel frattempo. Dunque, in questa puntata di Ciao Ragazzi, un po' di cultura, ho scelto di parlarvi un po' di cultura, un po' di storia, quindi più tardi nel programma parleremo, oggi nella storia più o meno, parleremo dello scandalo Watergate che è iniziato proprio in questo momento nel 1973, credo, non mi sbaglio, no, nel 72. Lo scandalo Watergate è scoppiato negli Stati Uniti e portò alla richiesta di impeachment e alle dimissioni dell'allora presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon. Alcuni di voi ve lo ricordate questo avvenimento, questo accadimento tempo fa? Alcuni di voi no, alcuni di voi più giovani magari l'avete studiato a scuola o sentito qualche documentario in TV, eccetera. Parleremo dello scandalo Watergate, poi a parte quello un po' di musica italiana, canzoni che spero che vi piaceranno, sono sicuro che vi piaceranno queste canzoni perché sono belle, sono divertenti, sono fighe, sono belle, forte, come state? Bene? Dunque, andiamo avanti, questa è una canzone di Gianna Nannini, è intitolata Meravigliosa creatura, anzi vi dico brevemente che in questo programma sentirete un po' di negro amaro, un po' di zero assoluto, vi metterò anche, dai, i Luna Pop torneranno per questa puntata e chissà che altro. Comunque, dopo questa canzone passiamo alle notizie della settimana, quindi state ascoltando, ciao ragazzi, un saluto a tutti. Benvenuti al giornale radio Ciao Ragazzi. Dunque, basta con questa sigla che fa cagare. Dunque, comunque queste sono le notizie di questa settimana, impressionanti davvero alcune di queste notizie che hanno a che fare con problemi nei servizi sanitari dell'Italia. Dunque, la prima notizia ci arriva da Castellaneta, anestetico invece di ossigeno, morti in ospedale. L'impianto di distribuzione dell'ossigeno dell'unità di terapia intensiva coronarica dell'ospedale civile di Castellaneta, nel Tarantino, è stato posto sotto sequestro dai carabinieri dopo la morte di un uomo cardiopatico 69enne. Al paziente, sottoposto a ventilazione forzata all'interno del reparto, è stato infatti somministrato un gas anestetico invece che ossigeno. Lo ha confermato il direttore generale dell'ASUL di Taranto, Marco Urago, in un fax inviato all'assessore regionale pugliese della sanità, Alberto Tedesco. La presenza di protossido di azoto all'interno dei circuiti gas medicali a servizio del reparto UTIC è stata causata da un errato collegamento in fase di esecuzione dell'impianto della linea di ossigeno alla linea del principale di distribuzione del protossido di azoto utilizzato da altri reparti. Questo è Alberto Tedesco che parla. Proprio il dirigente medico dell'azienda sanitaria tarantina, appena appresa la notizia dell'ennesima morte nel reparto di terapia intensiva di Castellaneta, assieme a personale medico e tecnico dell'ASUL, ha compiuto un sopralluogo all'impianto di erogazione dell'ossigeno, seguendo i tubi che trasportarono gas all'UTIC. Secondo Urago, il punto dell'impianto dove si è verificata l'inversione di collegamento tra ossigeno e protossido di azoto è ubicata in prossimità di un cavedio centrale del primo piano della struttura dove si trovano le montanti di distribuzione di tutti i gas medicali dell'atrio dell'UTIC. L'impianto era stato collaudato dalla ditta Ossitalia il 31 marzo 2005, certificandone il corretto funzionamento. Sull'episodio sono state aperte due inchieste, una da parte della Procura della Repubblica di Taranto, che procede contro ignoti per il reato di omicidio colposo. Le indagini sono state affidate al sostituto procuratore Mario Baruffa, un'altra inchiesta è stata avviata dalla Regione Puglia. Le reazioni. Il nostro sistema sanitario, ha dichiarato il Presidente del Consiglio Romano Prodi, ha delle punte splendide e degli episodi di dedizione straordinari, sia professionali che umani. Allora è chiaro che noi dobbiamo lavorare, ha concluso il Premier, perché fatti come quelli di Taranto non coprono il buono che c'è in un sistema sanitario come quello italiano. Apprezzo molto la tempestiva e la trasparenza del governo regionale. Ci auguriamo che la magistratura faccia rapidamente le indagini e sono sicura che rapidamente avremo accertata la verità dei fatti. Faremo la nostra parte, ha commentato il ministro della Salute Livia Turco. Duro il commento del presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola. Siamo di fronte ad un fatto sconvolgente la cui gravità non può essere assolutamente minimizzata. La Regione può subito annunciare l'intenzione di presentarsi parte civile nei confronti degli ipotetici responsabili della vicenda. Quello che è accaduto all'ospedale di Castellaneta nell'unità di terapia intensiva è gravissimo e conferma che il problema è la mancanza di sicurezza, afferma Teresa Petrangiolini, segretario generale di Cittadinanza Attiva, che prosegue. Un conto è un medico che sbaglia, ma nella sanità non si può sbagliare nelle procedure di sicurezza, nell'attuazione delle norme. Questa è la notizia di Castellaneta. Passiamo a Torino, un tabaccaio ucciso mentre deposita l'incasso. Alcune coltellate hanno causato la morte di un tabaccaio di Torino, ferito da ignoti mentre si accingeva a depositare l'incasso della giornata. L'uomo giunto in prossimità della filiale di Banca Sella di Corso Orbanasso, nella zona sud del capoluogo piemontese, è stato raggiunto da numerosi colpi d'arma da taglio. Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario del 118, l'uomo è morto sul suo arrivo all'ospedale Molinette. Sul posto sono intervenuti gli uomini della squadra mobile. Pare, tuttavia, che gli inquirenti non abbiano sinora raccolto elementi testimoniali significativi al fine di identificare gli aggressori. La ricerca dell'arma del delitto è stata favorita anche dalle fotoelettriche dei vigili del fuoco. L'uomo, Claudio Monetti, di 39 anni, sposato con un agente della Polizia di Stato, era residente a Grugliasco, in provincia di Torino, a pochi chilometri dalla sua tabaccheria, dalla quale, come era solito fare, aveva raggiunto ieri sera la vicina cassa continua a bordo della sua Hyundai Landra, davanti alla quale è stato aggredito e ucciso. Sulla vicenda è intervenuto Maria Luisi Coppa, presidente dell'ASCOM di Torino, che si è detta costernata, sconvolta. Monetti, è stato colto, ha aggiunto, in uno dei momenti più delicati della sua giornata, mentre stava depositando il frutto del suo lavoro. Da tempo abbiamo segnalato alla questura questo problema. C'è da dire che oggi fare il tabaccaio è diventato particolarmente pericoloso. Quanto accaduto questa sera, ha concluso Coppa, dà un'idea del rischio che vivono oggi i commercianti e gli imprenditori. Davanti a fatti di questo genere ci sentiamo terribilmente impotenti, ma comunque a bocche ferme nei prossimi giorni non potremo non riflettere su questo terribile fatto. Dunque, continuiamo con altre notizie. Questo interessante notizia, trovato un pianeta extrasolare abitabile, forse. Da quando le tecniche investigative astronomiche hanno reso possibile l'identificazione di pianeti extrasolari, ovvero pianeti che orbitano attorno ad una stella diversa dal Sole, la ricerca di pianeti con caratteristiche simili a quelli della Terra è stata continua. Infatti, un pianeta con massa e temperature simili a quelle terrestre sarebbe, in linea di principio, capace di ospitare la vita così come la conosciamo e magari ospitare forme di vita intelligenti. Tuttavia, fino ad oggi, gli unici pianeti scoperti erano completamente gassosi e di massa paragonabile a quella di Giove, il che rende di fatto impensabile la presenza di acqua allo stato liquido e quindi vita. Il 24 aprile 2007 un team di astronomi svizzeri, francesi e portoghesi, utilizzando il telescopio da 3,6 metri dell'European Southern Observatory, hanno confermato la scoperta di Gliese 581, un pianeta che ruota attorno alla nana rossa Gliese 581. È di massa circa 5 volte superiore a quella terrestre. Questa è la prima scoperta di un pianeta che fa parte della cosiddetta zona abitabile, ovvero che possiede potenzialmente tutte le caratteristiche per avere acqua allo stato liquido sulla superficie. Tuttavia, gli scienziati frenano gli entusiasmi e ricordano che ci sono moltissimi fattori ancora da verificare. Innanzitutto, gli S581C orbita estremamente vicino attorno ad una stella molto più fredda del nostro Sole ed ha una gravità almeno 2 volte maggiori della Terra, rendendo le condizioni molto differenti da quelle a cui siamo abituati noi. Questa è una notizia abbastanza interessante, sono queste le notizie di Ciao Ragazzi per la settimana. Rimanete con noi, dopo questa canzone passeremo all'oggi nella storia. Siete sintonizzati, scusate, sulla frequenza 88.5 2RRR. Bentornati alla trasmissione, passiamo al momento di cultura qui su Ciao Ragazzi. Dunque, oggi nella storia lo scandalo Watergate, il Watergate Complex, scandalo... O semplicemente il Watergate, fu uno scandalo politico scoppiato negli Stati Uniti nel 1972 che portò alla richiesta di impeachment e delle dimissioni dell'allora presidente degli Stati Uniti Richard Nixon. La vicenda prese il nome dal Watergate Complex, il complesso edilizio di Washington che ospita il Watergate Hotel, l'albergo in cui furono fatte le intercettazioni che diedero il via allo scandalo. Lo scandalo si sviluppò nel contesto politico del proseguimento della guerra del Vietnam, che sin alla presidenza di Lyndon Johnson era sempre più impopolare fra il pubblico americano. Il Watergate fu una serie di eventi che durò circa 2 anni, dal 72 al 74, e che era iniziato con l'abuso di potere da parte dell'amministrazione Nixon allo scopo di indebolire l'opposizione politica nei movimenti pacifisti e del Partito Democratico. Scusate. Importanti atti d'accusa furono le carte del Pentagono, uno studio top secret del Dipartimento di Difesa sul coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra del Vietnam e su precedenti conflitti politici o militari nel sud-est asiatico alla vigilia della fine dell'occupazione coloniale francese in Indocina. Nixon resse a 2 anni di montanti difficoltà politiche, ma la resa pubblica del nastro noto come la pistola fumante nell'agosto 1974 portò con sé la prospettiva di un sicuro impeachment per il presidente, che rassegnò le dimissioni solo 4 giorni dopo, il 9 agosto. Il 17 giugno 1972, Frank Willis, una guardia di sicurezza che lavorava nel complesso di uffici del Watergate Hotel a Washington, notò un pezzo di nastro sulla porta fra il pozzo delle scale e il parcheggio sotterraneo. Stava mantenendo la porta socchiusa. Così Willis lo rimosse, assumendo che l'avesse messo lì l'impresa di pulizia. Più tardi ritornò e scoprì che il nastro era stato rimpiazzato. Così Willis contattò la polizia di Washington. Dopo che la polizia arrivò, 5 uomini, Bernard Baker, Virgilio Gonzalez, Eugenio Martinez, James W. McCord Jr. e Frank Sturgis, furono scoperti e arrestati per essere entrati nel quartiere generale del Comitato Nazionale Democratico, la principale organizzazione per la campagna e la raccolta di fondi del Partito Democratico. Gli uomini erano entrati nello stesso ufficio anche 3 settimane prima ed erano tornati per riparare le cimici telefoniche che non funzionavano e, secondo alcuni, per fare delle fotografie. Il bisogno di tornare nell'ufficio fu solo il più evidente di una serie di errori commessi dagli scassinatori. Scusate. Un altro, il telefono di E. Howard Hunt sul blocco note di McCord, si rivelò costoso per loro e per la Casa Bianca quando la polizia lo trovò. Hunt aveva precedentemente lavorato per la Casa Bianca e McCord era ufficialmente impiegato come capo della sicurezza al comitato per rieleggere il presidente, al quale ci si riferirà comunemente come il creep avanzare strisciando. Questo in breve suggeriva che ci fosse una connessione fra gli scassinatori e qualcuno vicino al presidente. Ad ogni modo, l'addetto stampa di Nixon, Rod Ziegler, rigettò l'affare come un furto di terzo ordine, sebbene lo scasso avvenisse in un momento sensibile con la campagna elettorale che appariva all'orizzonte. Molti americani inizialmente credettero che nessun presidente col vantaggio che Nixon aveva nei sondaggi sarebbe stato così sconsiderato, privo di etica, da rischiare la sua associazione in un affare del genere. Una volta accusato, lo scassinatore McCord si identificò come un agente del CIA in pensione. L'ufficio del procuratore del distretto di Washington iniziò un'investigazione sui rapporti fra McCord e la CIA e finì per dimostrare che McCord aveva ricevuto pagamenti dal CRP. Il reporter del Washington Post, Bob Woodward, e il suo collega Carl Bernstein iniziarono un'investigazione sullo scasso. Molto di quello che pubblicavano era noto al Federal Bureau of Investigation, FBI, lo conosciamo tutti, e ad altri investigatori governativi. Questi erano spessi le fonti di Woodward e Bernstein. Ma in tal luogo il Watergate si mantenne sotto la luce dei riflettori. Il rapporto tra Woodward con una fonte segreta di altissimo livello aggiungeva un livello di mistero in più alla questione. Il nome in codice di questa fonte era, scusate, Gola Profonda, e la sua identità fu tenuta nascosta al pubblico. Decenni di speculazioni finirono il 31 maggio quando Mark Felt, il numero 2 della FBI, nei primi anni 70 rivelò che lui era la Gola Profonda, una confessione successivamente confermata da Woodward. Dunque, il 23 giugno il presidente Nixon e il capo di staff della Casa Bianca furono registrati mentre discutevano dell'uso della CIA per ostacolare le investigazioni della FBI su Watergate. Nixon pretendeva che la sicurezza nazionale potesse essere messa a rischio. Infatti il crimine e numerosi altri giochetti sporchi erano stati intrapresi a vantaggio della CRP, soprattutto quando la direzione di Hunt e Liddy La coppia aveva anche lavorato alla Casa Bianca nell'unità speciale di investigazione soprannominata gli idraulici. Questo gruppo investigava sulle fughe di notizie che l'amministrazione non voleva fossero conosciute pubblicamente e portò avanti varie operazioni contro i democratici e gli oppositori alla guerra in Vietnam. La più famosa delle loro operazioni fu l'irruzione nell'ufficio dello psichiatra Daniel Ellsberg. Ellsberg, un ex impiegato del Pentagono e del Dipartimento di Stato, aveva fatto trapelare le carte del Pentagono al New York Times e come risultato fu perseguitato per spionaggio, furto e cospirazione. Hunt e Liddy non trovarono niente di utile comunque e devastarono l'ufficio per coprire le proprie tracce. L'irruzione fu collegata con la Casa Bianca solo molto dopo, ma al momento causò il collasso del processo di Ellsberg per evidenza cattiva amministrazione del governo. L'8 gennaio 1973 gli scassinatori originali insieme a Liddy e Hunt subirono il processo. Tutti eccetto McCord e Liddy si dichiararono colpevoli e tutti furono condannati per cospirazione, furto con scasso e intercettazioni telefoniche. Dunque, continuiamo dopo la prossima canzone con i nastri. Parliamo di questi nastri. Dunque, state ascoltando a Ciao Ragazzi ed ecco i Luna Pop con C'è qualcosa di grande, perché mi sa che c'è qualcosa di grande dietro questo scandalo di Watergate. State ascoltando a 2RRR. E bentornati a Ciao Ragazzi. Io sono Roberto. Come state? Spero bene. Adesso, pubblicità. Some of the world's best rock bands come from your neighborhood garage and into your living room every Saturday night at 7 o'clock when Big Daddy K presents the Sydney Sound Show, featuring interviews and recordings by local garage, surf, psychobilly and power pop bands on 2RRFM, your alternative. You can find out more by visiting the website sydneysounds@iuma.com. Bella sta musichetta, vero? Adesso avete sentito uno spot pubblicitario per un altro programma su 2RRR, che bello, che bello. Adesso voglio giocare un po' con la nostra pubblicità, perché anziché andare direttamente sulla continuazione dello scandalo Watergate, giochiamo un po'. Dunque, se spingo questo tasto qua e faccio, ecco questo. Ecco, ecco, siete pronti? Eccolo. Che bello. Adesso che altro facciamo? Troviamone un altro per ricordarvi tutti che siete su 2RRR. Dunque, io faccio così, tasto, tasto, altro tasto. Hi, this is Keith Potker from the Seekers on 2RRR, 88.5 FM, and I hope you're enjoying the programming as much as I am. Si sta divertendo. E chi era? Chi era sto tipo? Questo tipo inquietante, così si dice. Ecco, troviamone un altro, vediamo se ci divertiamo un po' qui su Ciao Ragazzi. Ecco, ho trovato un altro. Andiamo avanti, sentiamo. This is 88.5 FM. Che carino, che carino sto bimbo. Dunque, ecco, qui ce n'è un altro, vediamo quello che succede. This is Nick from the Strokes and you're listening to 2RRR. Che bello, Nick from the Strokes, yeah. Che altro possiamo fare qui su Ciao Ragazzi prima che torno al nostro momento nella storia per questa puntata? Dunque, ne trovo un altro, uno più carino però. Ah, ecco, questo mi sembra carino. This is 2RRR, 88.5 FM. Bello, figo. Dunque, un altro, un ultimo. Ecco, vediamo. No, questo no, questo sì, questo no. Vediamo. Ok. No. Sì, eccolo. Ultima sigla per 2RRR. Hey, this is Shauna from Ash, and you're listening to 2RRR on 88.5 FM. This is Charlotte from Ash and you're listening to 2RRR FM. Dunque, bentornati su Ciao Ragazzi, io sono Roberto e dunque continuiamo con il nostro momento nella storia. Stavamo parlando dello scandalo Watergate. Dunque, passando allo scandalo Watergate, siamo arrivati al punto dei nastri. I nastri, interessante questo fatto dei nastri. Continuo. Le udienze tenute dal comitato senatoriale su Watergate, in cui il consigliere della Casa Bianca John Dean era il principale testimonio, e in cui molti altri ex impiegati in posti chiave dell'amministrazione diedero una testimonianza drammatica, furono messe in onda dal 17 maggio al 7 agosto, causando un danno politico devastante a Nixon. Fu stimato che l'85% degli americani possessori di TV si sintonizzò almeno per una porzione delle udienze. Cosa più nota, il senatore repubblicano Howard Baker del Tennessee formulò la memorabile domanda: cosa sapeva il presidente e quando venne a saperlo? Che per la prima volta focalizzò l'attenzione sul ruolo del presidente di Nixon nello scandalo. Il 13 luglio il vice consigliere del comitato Watergate Donald G. Sanders chiese ad Alexander Butterfield, vice assistente al presidente, se ci fosse un qualche tipo di sistema di di registrazione alla Casa Bianca. Butterfield rispose che, sebbene fosse riluttante a dirlo, c'era un sistema che automaticamente registrava ogni cosa nello studio ovale. La rivelazione scioccante trasformò radicalmente le indagini sul Watergate. I nastri furono subito citati contemporaneamente dall'accusatore particolare, Special Prosecutor, colui che si occupa delle indagini, Archibald Cox, e dal Senato, perché potevano provare se Nixon o Dean stavano dicendo la verità sugli incontri chiave. Dunque, Nixon rifiutò, usando il principio del privilegio dell'esecutivo, e ordinò a Cox, attraverso il procuratore generale Richardson, di lasciar cadere la sua citazione in giudizio. Il rifiuto di Cox portò al massacro del sabato sera, il 20 ottobre 1973, quando Nixon obbligò alle dimissioni il procuratore generale Richardson e il suo vice William Ruckelshaus, in cerca di qualcuno al Dipartimento di Giustizia intenzionato a licenziare Cox. Questa ricerca finì con l'avvocato generale Robert Bork, che fece quanto gli era stato chiesto e licenziò l'accusatore particolare Cox. L'asserzione di malfunzionamento del governo indussero Nixon alla famosa frase «Non sono un imbroglione, I am not a crook». Il 17 novembre, di fronte a 400 editori dell'Associated Press riuniti al Walt Disney World in Florida, Nixon comunque fu forzato a permettere l'insediamento di un nuovo accusatore particolare, Leon Jaworski, che continuò l'indagine. Mentre continuava a rifiutare di mostrare i nastri originali, Nixon acconsentì a rilasciare un gran numero di trascrizioni di essi. Queste confermavano largamente il resoconto di Dean e causarono ulteriore imbarazzo quando si venne a sapere che era stata cancellata una parte dei cruciali 18 minuti e mezzo di un nastro, che non era mai stata fuori dalla custodia della Casa Bianca. La Casa Bianca accusò di ciò la segretaria di Nixon, Rosemary Woods, che disse di aver accidentalmente cancellato il nastro schiacciando il pedante sbagliato rispondendo al telefono. Ad ogni modo, viste le foto che riempivano le pagine dei giornali, il tentativo di rispondere al telefono e contemporaneamente schiacciare il pedale avrebbe richiesto un stiramento quantomeno da ginnastica professionista. La donna disse che aveva mantenuto quella posizione per 18 minuti e mezzo. Più tardi, le analisi forensi determinarono che il vuoto era stato cancellato ripetutamente circa 9 volte, escludendo l'ipotesi della cancellazione casuale. La questione dei nastri alla fine arrivò alla Corte Suprema. Il 24 giugno 1974, in Stati Uniti contro Nixon, la Corte affermò all'unanimità che la richiesta di Nixon di usare il privilegio dell'esecutivo sui nastri era inammissibile. Inoltre gli ordinarono di consegnarli agli Jaworski. Il 30 luglio Nixon eseguì l'ordine e rilasciò i nastri incriminati. E questo è il momento della storia. Quanta storia che abbiamo sentito oggi. Dunque, io adesso vorrei giocare un altro po'. Abbiamo sentito un po' di storia. Inquietante questa storia di Watergate, no, mi sbaglio, eh? Hi, this is Adam Snyder from the Sydney Swans, and you're listening to 2RRR 88.5 FM. Che bello. state ascoltando a 2RRR. Dunque, passiamo a un'altra canzone, che ne dite? Sì, io dico che sarebbe ora di un'altra canzone, sono rimasti 15 minuti della nostra trasmissione. Ho parlato troppo, un po' di musica. Bentornati qui su Ciao Ragazzi, spero che state abbastanza bene. Guarda quello che ho trovato, questo è un amico mio, l'avete già sentito, ma adesso ve lo rimetto perché è una serata di pazzie e di storia. Hi, this is Hamish from the Teddy Sexuals, you're listening to Triple R 88.5 FM, your alternative. Hello Hamish, how are you? Ci siamo visti l'altra sera con questo ragazzo, che è anche in un gruppo, che come avete sentito, un ragazzo di un gruppo locale qui di Sydney, e bravo. È arrivato anche sulle sigle di 2RRR sto ragazzo, ha fatto strada. Dunque, state ascoltando Ciao Ragazzi, sono rimasti più o meno 10 minuti della nostra trasmissione. Passiamo da qualche annuncio? Sì, dai, passiamo a qualche annuncio. Annuncio. Annunciazione. Dunque. Ecco un annuncio. Sì, eccolo, lo vedo. Il comitato San Gabriele dell'Addolorata, organizza la sagra delle salsicce casalinghe per domenica 10 giugno all'Abruzzi Friuli Veneto Sports Club. La manifestazione è a favore dei disabili della Woodville Community Service. Pranzo di 3 portate con pasta, fagioli, salsicce di carne e di fegato e dolce per soli $25 per gli adulti e $15 per i bambini dai 6 ai 12 anni. La giornata sarà agliettata dalla musica di Lucio Ventresca. L'intero profitto sarà consegnato al termine dell'incontro ai rappresentanti del Woodville Community Service. Per ragioni organizzative si prega di prenotare telefonando a Abruzzi Friuli Veneto Sports Club 97264511, Tony Mancini 0418272418, Lella Porreca 97880880 o Nick Colantonio 97131020. Passiamo un po' di musica, passiamo alle vibrazioni, state ascoltando Ciao Ragazzi e vai! Hi, this is Hamish from the Teddy Sexuals, you're listening to Triple R 88.5 FM, your alternative. Bentornati su Ciao Ragazzi. Ciao, Hamish, come stai? Dunque, la Federazione Cattolica Italiana, il Comitato della Federazione Cattolica Italiana, sezione di Elwood, invita i soci e simpatizzanti alla festa della mamma che si terrà sabato 12 maggio nella Salone Parrocchiale 288 Homer Street, Elwood, con inizio alle ore 18.30, ampia possibilità di parcheggio, in programma cena di 3 portate con le bevande, dolce e caffè, musica da ballo per tutte le età ed estrazione di una ricca lotteria. Il costo è di $35 per gli adulti e $15 per bambini sotto i 12 anni. Nel corso della serata tutte le mamme presenti in sala riceveranno un dono, un regalo direi. Per le prenotazioni rivolgersi a Franco di Genova, 0438 445 553 oppure Nunzio Ciraldo al 9789 5879, quindi l'indirizzo, quindi sabato 12 maggio nel salone parrocchiale, indirizzo 280 Homer Street, Elwood. Bene, state ascoltando Ciao Ragazzi, è rimasto pochissimo tempo, io a questo punto direi che sarebbe ora di andarcene, avete sentito un po' di notizie, un po' di storie, un po' di questo, un po' di quell'altro, spero che vi siate divertiti, eccetera. Io un po' stanco, adesso è tempo di andare a casa, semplicemente, ecco, prima di salutarvi voglio fare una ultima cosa, Hi, this is Hamish from the Teddy Sexuals, you're listening to Triple R 88.5 FM.